only chick. See, I need chick. The C's part of makes me tick. Mama, yeah, yeah, yeah. Clickety click, I stick chick. Yeah, yeah, yeah, yeah. A high heels on for the baby blues. Yeah, yeah, yeah, yeah. Man, oh man, what a sight. Yeah, yeah, yeah, yeah. Purple lipstick for the very first time. Man, oh man, yeah, yeah, yeah. It was a night. Everybody stop, we're on a dime to look. Yeah, yeah, yeah. Even my heart, my heart got a shook. Yeah, yeah, yeah. She's my clickety click a stitch. Yeah, yeah, yeah. She's Miss Rhythm, she's Miss Rhyme. Oh man, she is mine. I said, oh, I got a stitch. She. A neat trick. Well, see what I make me tick. Mama, yeah, yeah, yeah, yeah. Clickety click a stick chick. Yeah, yeah, yeah, don't yeah, you yeah know she's a stick. Yeah, yeah. Mama, yeah, yeah. I stick yeah, a chick. Yeah, yeah. Ah, yeah. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. A stick chick. Clickety click, I'll fix it. Yeah, yeah, yeah, yeah, yeah. I got a crazy little chick. Yeah, yeah. I don't yeah, you know she's slick. Yeah, yeah. Ben ritrovate in super ritardo, sì lo so, a una nuova puntata di Slick Chick, ma come avevo già preannunciato sul blog, il sito insomma del Wombat, che colgo l'occasione per ricordarvi è wombat.noblogs.org, l'estate ci fa ritardare un pochino le cose, ce la fa prendere con calma e Slick Chick oggi eccezionalmente iniziava appunto un'oretta abbondante più tardi, ma mi farò perdonare perché la puntata di oggi è veramente densissima, non parlerò tantissimo, più che altro vi farò ascoltare musica, perché l'argomento è veramente vasto, nonché un po' bizzarro, però sì, evidentemente ha ispirato moltissima musica, perché stasera parliamo delle dive, delle attrici, super attrici, attricione, attricette note e un po' meno note, quelle che con il loro lavoro, i loro occhioni e quant'altro hanno ispirato un bel po' di generazioni, di più che altro di musicisti. Via, iniziamo subito perché appunto la scaletta è lunga e variegata e dobbiamo subito iniziare con un personaggio un po' casalingo, ma non troppo come sentirete, perché partiamo subito con Sophia Loren. Prego, prego, anywhere you may go, make each day be a day full of fun. If there's a game or a girl to be won, do it with a bing, bang, bong. A bing, bang, bong. A bing, bang, bong. Presto, presto, do your very besto, don't hang back like a shy little kid. You'll be so glad that you did what you did if you do it with a bing, bang, bong. A bing, bang, bong. A bing, bang, bong. Be like Christopher Columbo, take a chance, don't be a dopey or a gumbo, go around in a trance. One step, two step, step into a new step, live your life with a zip and a zing. You'll have the world on the end of a string if you do it with a bing bang bong. A bing bang bong. A bing bang bong. Anywhere you may go, make each day be a day full of fun. If good with a bing bang bong. A bing bang bong. A bing bang bong. Be like Christopher Columbo. Take a chance, take a chance. Don't be a Duffy or a Dumbo. Go around in a trance. One step, two step, step into a new step. Live your life with a zip and a zing. You'll have the world on the end of a string if you do it with a bing bang bong. A bing bang bong. A bing bang bong. Che inizio, eh? Non ve l'aspettavate, immaginavo. E vabbè, ok, un inizio un po' così scoppiettante. E beh sì, questa era proprio Sofia Loren in carne ed ossa che cantava Bing Bang Bong, scommetto che l'avevate immaginato. E il film da cui è tratta questa meravigliosa canzonetta è Houseboat del 1958, con oltre Sofia Loren c'era anche Cary Grant e vabbè, il regista era Melville Shelson. E la versione italiana di questo film si intitola Un marito per Cinzia, perché certamente bisogna comunque italianizzare e metterci un po' del nostro, perché già il film, insomma, valeva la pena. Noi abbiamo voluto aggiungere un carico da 90 e metterci del nostro, sì, Un marito per Cinzia, ebbene. E tra l'altro non parla, vabbè, diciamo che è così. E vabbè, ma tralasciamo questa italianità, come direbbe Stanis La Rochelle, e proseguiamo con una diva anomala, ovvero una diva che veramente diva non era. Ne abbiamo già parlato lungamente in un'altra puntata, una delle prime di Slick Chick, che approfondiva tutto quello che ruotava intorno al Chelsea Hotel. E sì, parlavamo, tra le altre cose, non potevamo non farlo, di Eddie Eddie Sidgwick. Perché questa meravigliosa attrice, che però in realtà non era solo attrice, era diciamo anche cantante, anche se ha cantato veramente poco, più che altro era una modella, e passò, diciamo, alla storia, o perlomeno arrivò alla ribalta grazie alla scena della Factory di Andy Warhol. Era nell'entourage, in tutto quel circo che Andy Warhol si portava dietro. Tra l'altro un circo molto più meritevole di lui, se volete la mia opinione, ma purtroppo lui è sopravvissuto a molti di loro. Fu così anche per Eddie, che finì piuttosto male. Già era partita male, ma ora non voglio approfondire più di tanto perché ne ho già parlato nell'altra puntata, e poi comunque sia, non abbiamo tanto tempo. Però insomma, già era sfigata in partenza, una famiglia un po' disastrata, molti morti e tutto quanto, e proseguì la sua allegrezza sostanzialmente passando da una crisi di nervi, allora le chiamavano così, all'altra, e da un ospedale psichiatrico all'altro, e finì morta di overdose, nonché passando per un bel po' di problemi con il cibo e quant'altro, insomma. E un personaggio però molto malinconico, molto triste, che Andy Warhol ha contribuito a rovinare un bel po'. E ci ascoltiamo, diciamo che la sua figura è stata, comunque ha lasciato un bel po', e soprattutto nella musica, perché in tanti ne hanno parlato e ne sono stati ispirati. Direi di iniziare con un po' il pezzo per antonomasia dedicato a Eddie, che è ovviamente i Velvet Underground con Femme Fatale. It's true. It's not hard to realize.

Questi erano i Cult, sottotitolo Ciao Baby. E vabbè, è un po' così. L'album era Sonic Temple del 1989, altro omaggio appunto a Edie Sedgwick, come dicevamo prima. Queste erano un po' le due canzoni dedicate a lei. E proseguendo invece troviamo un'attrice più fortunata, un'attrice svedese, Ingrid Bergman. Beh, lei diciamo che probabilmente ha avuto ben più fortuna di Edie, e qui ce ne parla in particolare Billy Bragg, tra l'altro sì, ok, ve l'ho fatto sentire proprio dallo stesso album Mermaid Avenue del 1998 nella scorsa puntata, ma tant'è, è venuto così. Che Billy Bragg, che a sua volta riprende un brano scritto da Woody Guthrie, che era un grandissimo fan, pare, di Ingrid Bergman. E beh, sì, abbastanza. Ha voluto fare questo brano. La nipote, tra l'altro, in un'intervista dice di essere rimasta piuttosto divertita dal fatto che questo pare sia un brano di discreto erotismo che parla di Ingrid Bergman, che sì, effettivamente al giorno d'oggi ci pare che sia un vecchietto che parla di un altro vecchietto, sì, tecnicamente è così, ma Ingrid Bergman al tempo suo ci aveva cose da dire. Quindi sentiamoci un po' Woody Guthrie, però cantato da Billy Bragg, cosa aveva da dire su Ingrid Bergman. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, let's go make a picture on the island of Stromboli. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, you're so pretty, you'd make any mountain quiver, you'd make fire fly from the crater. Ingrid Bergman, this old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman, if you walk across my camera, I will flash the world your story, I will pay you more than money. Ingrid Bergman, not by pennies, dimes, nor quarters, but with happy sons and daughters, and they'll sing around Stromboli. Ingrid Bergman, this old mountain, it's been waiting all its life for you to work it, for your hand to touch its hard rock. Ingrid Bergman, Ingrid Bergman. Io poi tu il frugoletto scherzoso laggiù. Ecco, è come se lo fosse, è mio figlio adottivo. Te lo sei scelto nel mazzo proprio, nel carcere dei minorenni. È un po' vivace, ecco. Ammazzelo, chiamalo vivace. Dì al frugoletto che con me se deve calmare, hai capito? Oh, il cavalier Bonifazio, come va? Signora? Come vede, non c'è più niente da fare perché siamo al completo. Mia sorella Lucia e mister Lucky. Piacere. Vi permetto di farle notare, signora, che la partita non è chiusa. Domani il commissario degli alloggi ci aspetta immancabilmente nel suo ufficio. Ah, sì? Beh, statemi bene a sentire, cavalier. Quella casa mi appartiene perché il commissario mi ha dato ragione. Voi potete pure seguire a schiattare perché tanto io non c'ho tempo da perdere. Vuol dire che se avete qualche altra quisquiglia la direte al mio rappresentante. Non sta, idomo. Eh? Ecco qua. Che fate? Venite da fronte voi? Questo è un attentato, secondo gli ordini ricevuti da chi sono io. Che roba. Signora, le annuncio che il signor Conte arriverà questa notte. Ah, sì? Oh, guarda, non potete immaginare quanto non me ne freghi niente, ma proprio niente. Dove va a lavar grugne voi che fate schifo? Une nuit que j'étais à me morfondre dans quelques pubs anglais du cœur de Londres, parcourant l'amour monstre de Wells, me vint une vision dans l'eau de Sels. Que des médailles d'impérateurs font briller à sa taille le bronze et l'or. Le platine lui grave d'un cercle froid la marque des esclaves à chaque doigt. Jusque en haut des cuisses, elle est beauté, et c'est comme un calice à sa beauté. Elle ne porte rien d'autre qu'un peu d'essence de guerlain dans les cheveux. Clochette d'argent de ses paniers, agitant ses grelots, elle avança et prononça ce mot. Sempre su Radio Wombat, Slick Chick, mercoledì 5 luglio 2017, ancora non avevo ricordato la data a chi di voi ci sta ascoltando in diretta, beh saranno pochi forse visto il ritardo, ma vabbè, e prima di questo pezzo bellissimo di Serge Gainsbourg che abbiamo sentito adesso, avrete riconosciuto probabilmente la voce abbastanza inconfondibile di Anna Magnani, insomma, mi sembrava abbastanza riconoscibile, un pizzettino piccolo tratto dal film Abbasso la ricchezza. Dicevamo Serge Gainsbourg perché ci stiamo addentrando nei due pezzi che ci introducono Brigitte Bardot. Questa era appunto il racconto di Gainsbourg di BB, ovvero il pezzo si intitola Initials BB, iniziali BB, Brigitte Bardot appunto, per i più lenti di voi. L'album è omonimo, si intitola anch'esso Initials BB, scritto tra il cioè, appunto sì, composto tra il 1965 e il 1968. Tra l'altro, quello che ascoltavate prima era un campionamento che rendeva, fra l'altro, secondo me piuttosto contemporaneo il pezzo di Gainsbourg. Se pensate che appunto si trattava di metà degli anni 60, non era una cosa proprio da poco. Il campionamento era tratto dalla Sinfonia numero 9, detta dal Nuovo Mondo di Antonin Dvorak, il primo movimento adagio allegro molto, se volete andarvela a risentire. Ma proseguiamo sempre con le descrizioni, i ricordi e quello che ha ispirato questa volta Brigitte Bardot, appunto, e ci ascoltiamo proprio lei con la sua vocetta. Brigitte Bardot che sempre insieme a Serge Gainsbourg, che evidentemente, come saprete, insomma, con cui ha fatto diverse cose e ha collaborato un bel po', e c'era di certo un sodalizio non da poco, perché sia in Initial BB Brigitte Bardot collaborava in alcuni pezzi con Gainsbourg, ma lo stesso avveniva al contrario nell'album di Brigitte Bardot, che però di fatto è stato scritto insieme a Gainsbourg e anche cantato in gran parte con lui, l'album del sempre 68, insomma gli anni erano quelli, che si intitola Bonnie and Clyde, brano Bonnie and Clyde che vi farò ascoltare, se non l'ho già fatto, forse l'ho già fatto, effettivamente non ricordo, ma che comunque sia è piuttosto divertente, se lo siete perso ascoltatevelo. Da questo album però Bonnie and Clyde è tratto anche quest'altro pezzo che si intitola Un jour comme un autre, sempre appunto di Brigitte Bardot. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais nous sommes déjà éloignés l'un de l'autre, de nous deux. Il ne reste que moi, mais pourquoi, toi, tu étais pour moi tout ce que j'espérais. Toi, tu étais ma vie, et même un peu plus, tu étais l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Tu t'en vas vers une autre, sans me dire un seul mot, et je ne comprends pas, comprends pas. C'est un jour comme un autre, mais moi j'ai mal de toi. Moi qui riais des autres, aujourd'hui c'est vous deux qui devez rire de moi, rire de moi. Toi, tu prends à jamais tout ce que j'espérais. Toi, tu me prends la vie, et même un peu plus, tu me prends l'amour. C'est un jour comme un autre, et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Et pourtant tu t'en vas. Questa era appunto Brigitte Bardot, Un jour comme un autre, un giorno come l'altro, e tratto appunto da questo album scritto, composto e interpretato insieme a Serge Gainsbourg. E, beh, forse questo era uno dei pochi in cui era lei da sola, effettivamente, perché come duetto, beh, funzionavano abbastanza bene. Ma proseguiamo, e ora arriva una trashata, sì, lo so, d'altra parte non potevo non mettere questo pezzo, onestamente non me la sono sentita, ho avuto dei grossi dubbi e tentennamenti, ma obiettivamente andava messo. Quindi adesso vi beccherete King Cairns con Bette Davis Eyes. Andava fatto. L'album è del 1981, pienissimi anni 80 all'inizio, ma le sonorità c'erano proprio tutte. Mistaken Identity. Tra l'altro, la stessa Bette Davis, menzionata appunto nel titolo e nel testo, insomma, di fatto il testo è totalmente dedicato almeno agli occhi di Bette Davis. Bette Davis ammise di essere una grande ammiratrice di questa canzone. Ebbene sì, gli piaceva, è stata contenta. E volle personalmente conoscere Kim Cairns e disse per ringraziarla di averla resa parte dei tempi moderni, cosa che secondo me è veramente elegante e di stile. Insomma, Bette Davis ne sapeva un bel po', evidentemente, anche solo con questa piccola frasetta buttata lì. Quindi via, ascoltiamocela, lo dobbiamo fare. Passa veloce, sono 3 minuti e 44, passa la paura. La dedico alla meravigliosa Wendy, che non la fa mai mancare nelle sue frizzanti DJ set insieme a Emerson Setters e non solo. Hair is hollow gold, her lips sweet surprise, her hands are never cold, she's got Bette Davis eyes, she'll turn the music on you, you won't have to think twice, she's pure as New York snow, she got Bette Davis eyes. Tease you, she'll unease you, all the better just to please you. She's precocious and she knows just what it takes to make a pro blush. She got Greta Garbo standoff size. She's got Bette Davis eyes. She'll let you take her home, who whets her appetite. She'll lay you on the throne. She got Bette Davis eyes. She'll take a tumble on you, roll you like you were dice, until you come out blue. She's got Bette Davis eyes. Knows you when she snows you off your feet with the crumbs she throws you. She's ferocious and she knows just what it takes to make a pro blush. All the boys think she's a spy. She's got Bette Davis eyes. The telephone. From Sheffield for you. Per mia. Sicuro. You, from Sheffield. Pronto. Vicenza sono. Perché mi perseguiti? Anche il lavoro mi faceste perdere. E tu perché mi abbandonasti? Ah, perché te ne scappasti? She wants to know why he abandoned her. Una tristissima scopetta feci quella notte. Te che di meglio? Il tuo comportamento non fu di donna onesta. Chi ti imparò a baciare? Te lo dissi, nessuno mi baciò prima. He wants to know who taught her how to kiss. Fu il grandissimo amore per Tia che mi imparò it subito. It was love that taught her. Troppo presto imparasti. Se eri donna onesta mi dovevi resistere. È il grandissimo amore disonesta mi fece. It was love that made me... E chi me l'assicura che se io ero un altro tu non ti comportavi alla stessa maniera? Lo vede che la risposta non ti venne subitanea? Non mi venne subitanea per la grande emozione di sentire la tua bellissima voce. Vincenzo. Tu mi facesti donna? Vincenzo. E tu mio sei, per tutta la vita. You're mine till the end of life. Oh. Tu il primo fosti. Hai capito? Il primo. E l'unico rimani. O mio, o di nessun'altra, chiaro? E qualora io non fosse d'accordo? Qualora? Ti metto una pallottola in mezzo agli occhi che ti esce da qua dietro. I'll put a bullet between your eyes. Mi pensi? Torna da una casa, disgraziata, che tanta mia non mi trova, hai capito? Non mi trovi, non mi trovi, non mi trovi. Amore mio, io tutte le domeniche libere ho. E per te ogni domenica suona la campana a motto. Tu mi puoi magari ammazzare, ma dando io le bottane come te non me le sposa, hai capito? Non me le sposo! Bottana. Non parla più. Dov'è? Where is? Sheffield, wasn't it? Yes, it was. E che cos'è? Un'altra città? Yes. Lontana? Far? No, it's about 300 miles, I think. It's less than that, surely. No, I think more. Well, it all depends whether you go by car or by train. Lontana 350 miglia. Cosa vuoi fare? I used to be a little kid, I used to go every Saturday afternoon to the picture show. Close up to the screen, my life was so serene. I lived through every scene with my movie queen, Betty Grable. Three 300 howling kids would always pack the house, but they just came for Donald Duck and Mickey Mouse. But there would be a world of fantasy wrapped in the melody she sang and danced for me, Betty Grable. Lots and lots of pin-up shots, I had them all, and there they were, pasted up upon the wall. When Mama said that it was time for bed, I'd eat some jam and bread and watch her overhead, Betty Grable. Just the other night I saw her on some late, late show, and it occurred to me I'm someone that she'll never know. So I wrote this little song, for the lady that I've loved so long. Betty Grable. When I used to be a little kid, I used to go every Saturday afternoon to the picture show. Beh, sì, questo era Niels Daka con Betty Grable. Prima ancora ci siamo ascoltati la meravigliosa Monica Vitti nella Ragazza con la pistola. Io non so voi, ma è uno dei miei film culto, un film che mi piace tantissimo, quindi ve lo farò riascoltare anche dopo, perché Monica Vitti, non ho trovato delle cose cantate da lei che valesse veramente la pena farvi ascoltare, almeno a mio gusto, e quindi ho deciso che comunque la sua voce roca bellissima doveva in ogni caso essere presente ai microfoni di questa radio, almeno stasera. Quindi, La ragazza della pistola, ricordo, film di Mario Monicelli del 1968, e adesso invece Niels Daka che ci raccontava di Betty Grable dall'album The Hungry Years del 1975. Betty Grable fu un simbolo, diciamo, un sex symbol, diciamo, in particolare per i soldati americani al fronte, diciamo, dalla Seconda Guerra Mondiale fino alla Guerra di Corea, perché essenzialmente fu un po' un'icona degli anni 40 più o meno. I soldati, era la tipica icona che i soldati tenevano negli zainetti, negli armadietti, insomma, quella che la fotina che tenevano sempre con loro. E lei fu un po' un'attrice del burlesque, fetish, un po' quel genere che diede vita poi al termine pin-up. Lei fu effettivamente una di quelle attrici che in qualche modo diedero vita a quel termine e lo personificarono poi effettivamente. Quindi questa era Betty Grable. Continuiamo, perché ci abbiamo ancora tantissime cose da farvi ascoltare. In particolare adesso abbiamo una vecchissima canzone che risale, almeno questa interpretazione, perché poi in realtà questo pezzo è un classicone fatto un po' da tutti, finito in mille show televisive e non, al cinema, ovunque, insomma. Questo però, questa interpretazione, che poi è una delle più famose, di Al Jolson del 1913, si intitola You Made Me Love You, I Didn't Want to Do It, ed è un pezzo dedicato a Judy Garland. I've been worried all day long. Don't know if I'm right or wrong. I can't help just what I think, for your love made me this way. Why do I feel blue? There were times when I'd laugh at you, but now I'm crying. No use denying, there's no other girl will do. I didn't think you'd do it. I didn't think you'd do it. You made me want you. All the time you knew it. All the time you knew it. You made me happy sometimes. You made me glad. But there were times here, oh, I felt so bad. You made me cry, Mom. I didn't want to tell you. I didn't want to tell you. Some love from you. That's true. You know what you need to do. Yes, I do. Give me what I cry for. You know you've got friends and kisses that I die for. You know you made me love you. You made me love you. I didn't think you'd do it. I didn't think you'd do it. You made me want you. All the time you knew it. Yep, all the time you knew it. You made me happy sometimes. You made me glad. But there were times, dearie. Oh, I felt so bad. You made me cry, Paul. I didn't want to tell you. I didn't want to tell you. Some love from you. That's true. You know what to do. Do. Yes, I do. Give me what I cry for. You know you got the brand of kisses that I die for. You know you made me love you. Callaghan, and he's blocked on the three-quarter line. No. Callaghan no. tackles, but misses, and Richards is clear. No. Richards to McCallum, who hesitates. Look. Out to Jones, who's making ground down yes, the middle. Yes, he go, bends go. Over Callaghan, who comes again. Down to the line. Down under a wrap of players. Excuse me. And the ball rolls loose. Get it out. Get it out. That's it. Now go on. He's go immediately on. Tackled by the fullback. Oh, he's tackling God. Him. Oh, he's right. taking him out right over the touchline. Matu. Go. Que only uomo one sei. Left. No, comprendo. Come on. What man are you? One down the field. What? You look, TV, 2 hours, 2 ore. I am watching sport, rugby. I gioco, play rugby. Sabato, io gioco. Saturday, voglio vedere. Go on. The ball comes into play. Marco, tu uomo, io donna. Nessuno in casa e tu look TV. The whistle has gone to bring to a close this fine game. Oh, you're well, a little lunch. No, no, no, what are you doing? Lasciami! Don't shout! I... Come on, me. Don't shout! Lasciami! Lasciami! Sai Giovanni, scendi giù! What's the matter with you? Maria Santissima! La pistola! La pistola! Io t'ammazzo! T'ammazzo! Guarda che ti dico questo della ciocchio, sai! I don't understand, non capisco. Sei tu che mi hai provocato. Perché vero uomo ci deve provare, ma la vera donna si deve difendere. Allontanati. I got it. Okay. Okay. Sunny day to talk to what's left of this vast crowd of disappointed fans who streamed away from here. Ma come? Tu ti chiudi a chiave. Your lips clothes beneath your comb. Granite pines, silver shine, green velvet throne. 14 in the water brings the flower stream. 14 in the water sings the black horse. May planets crash, may God rain ash to seal our skin, to fold a seam. Kneeling close, seeking hands, our blood is warm. But what comes next? Slick Chick su Radio Wombat, questi erano gli Swans con Kirsten Supien, speriamo si dica così, non lo so, preceduti dal solito, come prima, la ragazza con la pistola, una clip tratta dal film, la Monica Vitti, succitata. Gli Swans, l'album era Not Here Not Now del 2013, e che hanno dedicato questo pezzo a Kirsten Supien, appunto, io penso si dica così, non lo so, che era una delle attrici principali, delle tue due protagoniste del film Melancolia di Lars von Trier, ve lo ricorderete, un bellissimo film che, se non l'avete visto, vi consiglio assolutamente. E gli Swans omaggiano in particolare una scena dove la protagonista sta lì a fare, non mi ricordo assolutamente cosa, però diciamo che appunto l'atmosfera coincide abbastanza, secondo me, con il mood, con l'atmosfera di Melancolia. Diciamo che soprattutto il crescendo finale coglie perfettamente l'atmosfera, lo spirito del film di von Trier, almeno secondo me. Ma proseguiamo, perché davvero abbiamo ancora diverse cose da fare, puntata lunghissima e giustamente l'ho iniziata anche tardi. Ecco, quando parliamo di dive, di attrici, ovviamente una delle prime che vengono in mente è Marilyn Monroe, non potrebbe essere altrimenti, quindi non c'è veramente molto di più da dire, è inutile che parli né della sua vita, né della sua morte, né di con chi andava in giro, con chi non andava in giro, insomma si sa tutto di lei. Beh, i complottisti direbbero che ci sono anche diverse cose che non si sanno di lei, ma io non sono una complottista, quindi comunque sia vi faccio ascoltare della musica dedicata a lei, ma innanzitutto proprio la signorina Monroe che canta, perché aveva anche un'ottima vocetta, secondo me veramente veramente bella, con un modo di cantare dei certi vezzi stupendi che sono stati anche parecchi sottovalutati nel tempo, come diverse altre cose sono state sottovalutate, ma vabbè. Quindi vi faccio ascoltare dal musical Leave It to Me del 1938, My Heart Belongs to Daddy. Just adore his asking for more, but my heart belongs to Daddy. Yes, my heart belongs to Daddy. So I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to Daddy. Dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad, dad. So I want to warn you, laddie. Though I know that you're perfectly swell, that my heart belongs to Daddy. 'Cause my daddy, he treats it so ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da ba da. While tearing off a game of golf, I may make a play for the caddy, but when I do, I don't follow through. Sugar-dooga-doo, sugar-dooga-doo, ooh, daddy. If I invite a boy some night to cook up a fine enchilada, though Spanish rice is all very nice, ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-da-da. Yes! My heart belongs to my daddy, so I simply couldn't be bad. Yes, my heart belongs to my daddy. Da da da da da da da da da. So I want to warn you, laddie. Though I know you're perfectly swell, that my heart belongs to my daddy. 'Cause daddy, my daddy, my little old daddy, he treats it so. Ow! That little old man, he just treats it so good. Andiamo, torniamo indietro, su belli, su! Copritevi la bocca! Assassini! Mettetevi i fazzoletti sulla bocca! Ci vorrebbe una bella lettera ai giornali! Il mondo non si cambia con le lettere ai giornali! Chi ha il fazzoletto, se lo metta sulla bocca! Dovreste andare là e buttare una bomba! Sono contro la violenza, il mio idolo è Gandhi! Guarda, ti avverto che mio figlio non crescerà come una pecora! E io ti avverto che se il mio lo vedo con un'arma in mano lo prendo a schiaffi! Ma prendi a schiaffi quelle che le fabbricano le armi! E il cemento! E questa è l'aria fresca che mi ha ordinato il professore! L'aria pura! Inquinatori! Sfruttatori! Sì, quando è che ti sentono? Ma anche con loro tubi, hai uno stile. E grida! Non voglio dare ai bambini una lezione di volgarità, siamo degli educatori. Ma è una lezione di ecologia. Sanguisughe! Egoisti! Ricchi! Ricchi non è un'offesa. Si vede che ignori la lotta di classe. Ricchi! Capitalisti! Ineducati! Sì, buonasera. Maria, davanti a queste innocenti creature, che posso dire di più? This morning, how long will you keep running on and on? Can't you see the warning? I need you more than ever before you're gone forever. Please don't let your heart run out of time. While hearts run out of time, when you're up against the night, don't stand there all alone in the dying of the light. While hearts run out of time, and you need a love like mine to show. in the sunshine of your mind. Wild hearts run out of time. Don't let this old world turn you. Don't let the wildlife hurt you anymore. Don't let the bright lights burn you. Please don't stand there crying, because the time is flying. I can't let your heart run out of time. Wild hearts run out of time. When you're up against the night, don't stand there all alone in the dying of the light. Wild hearts run out of time, and you'll need a love like mine to show you hope is there in the sunshine of your mind. Wild hearts run. Ecco, questo era Roy Orbison con Wild Hearts Run Out of Time, un po' una trashata, mi rendo conto, ma d'altronde è un vecchio Roy Orbison degnissimo di Lynch, secondo me, perché è del 1984, insomma, un Roy Orbison decisamente a fine carriera, come dire, e che comunque dedica questo pezzo a Marilyn Monroe in un disperato tentativo, immaginario tentativo di salvarla e la fatidica notte in cui morì, ma sempre restando intorno a Marilyn Monroe, anche se non direttamente su di lei, ci ascoltiamo il prossimo pezzo. Ah beh, non ho detto che prima di Roy Orbison abbiamo sentito una piccola clip che era per rendere omaggio a un'altra attrice che a me piace moltissimissimissimo, che è Mariangela Melato, e il film, l'avete sentito, era insieme a Nino Manfredi, la clip era tratta da Lo chiameremo Andrea, un film del 1972 di Vittorio De Sica, bellissimo film che andrebbe rivisto. E proseguendo, Siouxsie and the Banshees, dicevamo sempre intorno a Marilyn Monroe, sfiorandola, perché in realtà non si tratta di Marilyn Monroe precisamente. Il brano si intitola Kiss Them For Me e l'album è Superstition del 1991, ma si tratta di un riferimento esplicito, insomma una dedica all'attrice Jane Mansfield, che era un po' l'antagonista di Marilyn Monroe, era un po' la concorrenza, ecco, quella che però non ce l'ha fatta, la sfiga, ecco. Perché, in particolare Siouxsie qui si riferisce, ci sono vari slogan che venivano usati spesso da Jane Mansfield, parla della piscina a forma di cuore, dello champagne, delle feste, e anche fa un riferimento anche all'incidente abbastanza macabro, un incidente automobilistico in cui Jane Mansfield morì, tra l'altro con tutti gli altri che stavano in macchina con lei, nel 1967, abbastanza macabro come incidente, appunto perché si accartocciò brutalmente. Kiss Done For Me è anche il nome di un film della 20th Century Fox del 1957, dove recita, appunto, appariva appunto la Mansfield e anche Cary Grant. Era sicuramente considerata una sex symbol e una bionda platino, un po' diciamo nello stile pin-up, che comunque sia negli anni 50 andavano un sacco e stava sulle pagine di Playboy e quant'altro, insomma. Però si gareggiava con Marilyn Monroe, che era un po' la sua rivale, e per ottenere le parti nei film. La Monroe ovviamente le otteneva, e le otteneva di parti abbastanza importanti, mentre invece la Mansfield porina quasi pochissima roba, e otteneva soltanto piccole parti. E più che altro, in realtà, se dobbiamo dirla tutta, viene scritturata sempre dalla 20th Century Fox come rimpiazzo proprio della Marilyn Monroe, insomma, giusto per mettere il dito nella piaga, quando Marilyn non è che se la cavasse benissimo, era un po' messa male. Però, nonostante ciò, nonostante gli avessero dato qualche piccola parte anche di rimpiazzo, lei non ce la fece, non riuscì ad affermarsi a Hollywood. Poi non so se questo è stato un male o un bene per lei, però in ogni caso finì per comparire in questi melodrammoni indipendenti a basso costo, diverse cose girate in Europa, e finì col finire la sua carriera nei nightclub. Diciamo che tra l'altro ci furono una serie di scandali legati al suo nome, divertenti, perché verso la fine degli anni 50, sottolineo anni 50 perché insomma, ma non che adesso queste cose non farebbero scandalo, però negli anni 50 immaginatevi parecchio di più, Jane Mansfield appunto attirò diversa pubblicità negativa, ma si sa, la pubblicità va bene sempre anche se negativa, perché aveva questa tendenza a mostrare parti di sé piccanti in una serie di apparentemente incidenti, che in realtà erano ovviamente studiati, per cui sì, ogni tanto si vedeva una tetta, ma questo perché ovviamente non faceva altro che accrescere la sua fama. E tra l'altro pare che sia rimasto famoso lo scatto che la ritrae accanto a Sophia Loren in una cena in onore appunto della Loren nel 57, dove c'è la Loren che perplessa guarda un po' di sottecchi con un po' di disprezzo la nostra povera Mansfield, che se ne stava seduta accanto a lei, che mentre si sporgeva verso il fotografo mostra inavvertitamente un capezzolo. Questa cosa fece un po' il giro del mondo e non fu la sola, non fu la prima né neanche l'ultima. Quindi, vabbè, poverina, si faceva quello che si poteva. D'altronde, i tempi erano quello che erano, la rivale era Marilyn Monroe, che se poteva dire. Quindi, ci ascoltiamo adesso l'omaggio che Siouxsie fa a questa povera e tutto sommato divertente, simpatica, che apprezziamo, stimiamo e rispettiamo, Jane Mansfield. E quindi Siouxsie and the Banshees, Kiss Done For Me. It's Ma che ci volete insegnare la Bibbia a noi? La messa l'ha detta cantata! A mamma Roma, facciate una bella cantata dei cori. Via, canto. Malla, malla, mamma Roma. Fior de gaggia, quando canto io canto con allegria, e se io dico tutto rovino sta compagnia. A Carmine, batte da te che sta forte ancora. Fatto nero, Carmine. Fiore de sabbia, tu ridi scherzi e fai la santa donna, e invece in petto schiatti dalla rabbia. Fiore de menta, ferme de bocca che c'è innocente, è meglio che non veda e che non senta. Fior de cucuzza, na donna per sti baffi andava pazza, e adesso che la persi ce va in puzza. Brava Clementina! Fiore de merda! Io mi sono liberata da una corda, adesso tocca un'altra a fa la serva. La sua sposa, senza invidia, auguri, sono libera, sono libera. Auguri, i miei sposi. At first I thought I was just dreaming it. I've been hearing her voice in my sleep for nights anyway. Then I realized. When Mrs. O'Leary's car kicked the Latin in Chicago town, say that started the fire that burned Chicago down. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boy. Put the blame on me. Name kissed a buyer from out of town. That kiss burned Chicago down. So you can put the blame on me, boys. Put the blame on me. Remember the blizzard back in Manhattan in 1886. They say the traffic was tied up and folks were in a fix. That's the story that went around. But here's the real lowdown. Put the blame on me, boys. Put the blame on me. Name gave a chump such an ice cold no. For 7 days they shovel snow. So you can put the blame on me, boy. Put the blame on me. Oh, good morning. Questa era Rita Hayworth, l'avete riconosciuta, Put the Blame on Me, tratto da Gilda del 1946. Che in realtà, vabbè, questo pezzo lo dedico assolutamente a Prog 75 perché è il suo pezzo, penso, preferito di sempre. È la persona che lo sa interpretare meglio, col suo guanto, sa fare tutto, cioè è bravissimo. Ma a parte questo, forse non tutti sanno che non è Rita Hayworth che canta questo pezzo, ma bensì Anita Kurt Ellis, poverina, che ha cantato, ha doppiato a Rita Hayworth, che poi è rimasta famosa e lei, poraccia, non se l'è inculata nessuno. E invece, insomma, c'ha anche una bella voce, ma poverina, niente. Prima di questo abbiamo sentito Mamma Roma, sì, ovviamente Anna Magnani, tratta da il film di Pierpaolo Pasolini del 1962, e adesso questa Rita Hayworth ci introduce a un'altra diva, altrettanto famosa, forse anche di più, un po' più controversa, che è Marlene Dietrich. E beh, non vi dico altro e poi ne parleremo. E comunque sia, adesso sentitevi la sua voce, che è abbastanza inconfondibile. Marlene Dietrich, Falling in Love Again, tratto dal film del 1930 L'Angelo Azzurro, quello che l'ha resa un po' famosa. Wanted to. What am I to do? I can't help it. Love's always been my game. Play it how I may. I was made that way. I can't help it. Men cluster to me like moths around a flame, and if their wings burn, I know I'm not to blame. Falling in love again, never wanted. What am I to do? I can't help it. Caronello e Teresa, scusate il silenzio, ma al carcere de Pagliano, detto l'inferno dei vivi, ho tirato in faccia al maresciallo erbuiolo pieno di piscio. Esso mi fece legare con catena al letto di contenizione e mi menò, scontata la quale trovai in cortile una gattina e la allevai, ma questo maresciallo mi ammazzò il gatto. Io lo colpii al petto con un chiodo e mi rifugiai sul tetto. Il maresciallo e l'ergastolano la parca vennero su per pigliarmi, lotta accanita, ferita al braccio del maresciallo sinistro, cortellata alla parca che cadde al suolo maledicendomi, ora trasferita a Porto Longone, che pretendono chiamiamolo Porto Azzurro, ma rifiutiamolo, per noi vittime a società e tuttora Longone, inferno degli umani. E tu come stai, sorella cara? E Nello? E papà? È sempre tanto perfido? E quelle due zoccole in casa? E l'altri fratelli puzzoni che si sono arricchiti? Chiusi dentro le loro ricchezze ci hanno lasciato marcire a te e a me nelle galere. Loro e quelle trippone stronze delle cognate. Tutti rotti in culo. Tanti baci affettuosi, il vostro affezionatissimo Orlando. Loved it, so she said. Sad-eyed pearl and drop lips, glancing pierced through rider men, spoke hushed and frailing hips. Oh, oh, thy skim increasing lips, the tear falls as she describes, approaching death with a yearning heart, with pride and no despise. Watches flow as she recounts her favorite word of token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Watches flow as she recounts her favorite word of token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Out tones, no velvet lies, crush her velvet call. Oh, money, suffer all the fools who write you on the wall. And hold your tongue about your life, for dead hands will change the plot. We'll make your loving sound like sneaks, like you were never hot. Heart just flows, here it comes. A favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Heart just flows, she recounts the favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Heart just flow as she murder toll come. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Octaves flow as she recounts her favorite word, a token. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Forgive me, please, for hurting so. Don't go away, heartbroken, no. Peter Murphy, Marlene Dietrich's favorite poem, dall'album Deep del 1989. E beh, Peter Murphy, cantante dei Bauhaus, per chi gli fosse sfuggito. Dicevamo, Marlene Dietrich, sì, prima abbiamo ascoltato del 1930 Falling in Love Again, tratto dall'Angelo Azzurro, regia di Josef von Sternberg, e film tratto da un romanzo di Heinrich Mann, fratello del più famoso Thomas Mann, ricorderete. E tra l'altro il primo film sonoro del cinema tedesco è quello che gli ha dato un po' la fama alla Dietrich. In questo periodo Sternberg, che era un po' il regista feticcio della Dietrich, lei fece un po' di tutto per rimanere con lui, per farsi scegliere, per non contraddirlo. In questo periodo lui la convinse a farsi togliere 4 molari e la mise a dieta ferra per darle un aspetto più drammatico. E insomma, diciamo che Marlene Dietrich fece diverse cosette nella sua vita per assecondare un po' il personaggio che si era creato, che doveva crearsi, e i capricci dell'epoca e dei vari registi, che effettivamente ne hanno fatto una icona, ma a un bel prezzo, ecco. Effettivamente poi l'immagine della Dietrich spazzò via un po' tutte le altre e convinse la Paramount a tenerla, nonostante la Dietrich all'epoca era un po' scandalosa per quelle cose incredibili che aveva fatto, tipo mostrarsi in pantaloni, che all'epoca appunto indossare vestiti maschili per una donna era una cosa abbastanza terribile, incredibilmente sovversiva. Altre cose note della Dietrich che si possono nominare, beh, ce ne sarebbe mille, ma non abbiamo veramente il tempo. Tra quelle più famose è il film Marocco, dove lei fece questa meravigliosa performance vestita da uomo, dove cantava vestita da uomo, e baciando una donna tra il pubblico. Scena incredibilmente scandalosa, che resta una delle prime rappresentazioni di un bacio omosessuale della storia del cinema, perlomeno probabilmente la più famosa, ecco. Oppure in Capriccio Spagnolo, sempre Sternberg, simpaticissimo, doveva essere un personaggio proprio amabile, un po' alla Andy Warhol, aveva pensato questa divertente scena di presentazione di un personaggio con un primo piano di un palloncino che scoppia e accanto il volto della Dietrich, e le veniva richiesto di rimanere completamente impassibile quando il palloncino scoppiava, evitando di sbattere le palpebre, come invece verrebbe naturale fare. La Dietrich si sottopose a prove estenuanti, alla fine riuscì a fare esattamente quello che le veniva chiesto. Poi vabbè, da lì inizia un po' il declino, cioè da lì insomma negli anni successivi inizia un po' il declino, cadute vere fisiche la rendono sempre più debole, più fragile. Soltanto si ritira dalle scene negli anni 70, soltanto nel 1978 fu convinta veramente in maniera quasi incredibile a ritornare un'ultima volta sugli schermi insieme a David Bowie per la parte della baronessa nel film Gigolò. Queste erano un po' di aneddotiche sulla meravigliosa Marlene Dietrich. La clip che invece abbiamo sentito di intermezzo tra i due pezzi dedicati a Marlene Dietrich era tratta da Teresa la ladra, un film del 1973 di Carlo Di Palma, a sua volta tratto dal romanzo Memorie di una ladra di Dacia Maraini del 1972, quindi di solo un anno prima, ed era ovviamente Monica Vitti. Ci ascoltiamo l'ultimo pezzo e con questo io vi saluto e vi do appuntamento a mercoledì prossimo. È stata una puntata lunghissima, una maratona, ma vabbè, d'altra parte è andata così, spero che vi sia piaciuta lo stesso. Ci risentiamo appunto mercoledì prossimo, ma prima di questo vi lascio con l'immancabile, non poteva essere diversamente, l'immancabile Doris Day con Whatever Will Be o Che Sarà Sarà, a seconda di che lingua preferite. Pubblicata per la prima volta nel 1956, scritta da Ray Evans e Jay Livingston, che è stata composta per il film di Alfred Hitchcock, lo ricorderete, L'uomo che sapeva troppo del 56, cantata appunto da un'altra delle nostre eroine, Doris Day. Ciao ciao, a mercoledì prossimo! When I was just a little girl, I asked my mother, what will I be? Will I be pretty? Will I be rich? Here's what she said to me. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, when I grew up and fell in love, I asked my sweetheart, what lies ahead? Will we have rainbows day after day? Here's what my sweetheart said. Que sera, sera, whatever will be, the future's not ours to see. Que sera, sera, what will be. Now I have children of my own. They ask their mother, what will I be? Will I be handsome? Will I be rich? I tell them tenderly. Que sera, sera, whatever will be. Future's not ours to see. Que sera, sera, what will be, will be. Que sera.